guardati intorno, la prigionia che ti sotterra è solo una sostanza del giorno incancellabile del tuo primo taglio, e quindi resta sveglio, riconduci le ferite di tutte le cadute, temo non ci sia strada migliore del cuore se le altre sono cadute in un'ora solitaria di sole, cuci e così resta sveglio, domani un domani sarà sempre meglio di come era il mondo di solitudine che trasportava ogni tuo riflesso inquieto, quindi torna a sognare cigno, torna a sognare cigno. Rotture del tempo intorno riportano memoria dall'abisso, costo di irrompere in ogni tuo gesto, torno al suono del mio scudo, vedo e quindi resto, poi odo le parole svanire dal mio crine, dove si eclissano note in fiore, rime risolte dal cammino in ore d'essenza, cercando l'arrivo alle cime, dove vedo e quindi resto e poi odo parole in volo di incomprensioni, tensioni che colgo solo col cuore, ore liquide di pulsioni e colore, tensioni che vengono in onde dal mare, dove vedo e quindi resto poi odo ritorni di parole, specchi di cicatrici organizzate, mangiando rintocchi e echi di soluzioni di parole straziate. Un domani che verrà, sarà un giorno meglio, diurno risveglio della mia alba, intonerà la speranza che verrà con un nuovo canto, manto sognato del nuovo giorno. Un domani che verrà, sarà un giorno meglio, diurno risveglio della mia alba, intonerà la speranza che verrà con un nuovo canto, manto sognato del nuovo giorno. Guarda, guardati intorno, la prigionia che ti sotterra è solo una sostanza del giorno incancellabile del tuo primo taglio, e quindi resta sveglio, riconduci le ferite di tutte le cadute, temo non ci sia strada migliore del cuore se non le altre cadute in un'altra ora solitaria di sole, cuci e così resta sveglio, domani un domani sarà sempre meglio di come era il mostro di solitudine come trasportava ogni tuo dolce sorriso inquieto, quindi ritorna a sognare cigno, ritorna a sognare cigno. Rotture del tempo intorno riportano memoria dall'abisso, a costo di rompere in un solo gesto, torno dal suono del mio scudo, vedo e quindi resto, poi odo il dolore svanire dal mio crine, dove si eclissano note in fiore, rime risolte del cammino in ore, l'esistenza cercando l'arrivo alle cime, dove vedo e quindi resto, poi odo parole in volo, incomprensioni, tensioni che colgo solo col cuore, ore liquide e passioni e colore, tensioni che venivano in onde dal mare, dove vedo e quindi resto, poi odo ritorni di parole, specchi di cicatrici organizzate, mangiando rintocchi e echi, soluzioni di parole straziate, di parole straziate, di parole straziate. Un domani che verrà sarà un giorno meglio, diurno risveglio della mia alba, intonerà la speranza che verrà con un nuovo canto, manto sognato del nuovo giorno. Un domani che verrà sarà un giorno meglio, diurno risveglio della mia alba, intonerà la speranza che verrà con un nuovo canto, manto sognato del nuovo giorno, di un nuovo giorno, di un nuovo giorno, di un nuovo giorno.